Cosa vedono in te? Non lo so, ti dico solo che ovviamente quando mi propongono qualche cosa poi che va in porto, vado dai miei genitori che sono molto fan e vado da mio papà e dico: papà, mi hanno preso per fare sta cosa. Ah, bene, bene, i miei genitori sono napoletani, mi hanno preso per fare questa cosa. Beh, che fai, che fai? E faccio questo ruolo omosessuale. Ma è nata voto. Questa è stata la risposta di mio papà in maniera molto ironica, però no, mi diverto, mi piace. Questo poi è un personaggio molto diverso dagli altri che hanno interpretato, altri due. Lì con Checco Zalone, quando facevo Manolo, dovevo stare a una temperatura più alta, nel senso tu hai a che fare con... Cioè non era sopra le righe, era fuori dal quaderno proprio. Sì, esattamente, ma perché stai recitando con una maschera, stai recitando con Totò. Qui invece è veramente la normalità. Tu hai fatto tanto cinema, tanta TV, anche da conduttore, hai fatto tante cose. Ormai la domanda quasi non si fa più, perché la serialità televisiva ormai è un genere di serie A, anche per un attore. Beh sì, ma finalmente, ma in realtà i prodotti belli ci sono sempre stati, io penso. Prima però c'era un po' di snobismo da parte di qualcuno sul fatto che se facevi una serie TV eri un po' uno sfigato, ecco, mettiamola proprio così. Io le fiction me le guardo, mi piace stare a casa a me da morire sul divano a guardarmi le fiction, e se non posso me la registro e poi me la guardo. Poi il venerdì sera che sono stanchissima perché sto preparando la trasmissione, non vedo l'ora, copertina, divano. Bellissimo. Amore, pensaci tu. Cioè, belli, tu stai sul divano e fai: ma ci sono i piatti da fare, amore, pensaci tu. Ma e che tu meraviglia. Stai lì e ti guardi la TV, che te frega, ma la copertina, amore, pensaci tu, dai. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Fabio Troiano. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.